TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sanità in 10 anni tagliate in regione, oltre 40 direzioni di struttura complessa, la riduzione dei primari è di oltre il 20%, lo studio di un sindacato dei medici. Pordenone, emergenza freddo nei locali del 118 al vecchio ospedale, guasto al riscaldamento riparato, ma per gli addetti è solo una pezza. Incremento di oltre 120 unità entro marzo negli organici della polizia, quasi la metà a Trieste per le frontiere. Morto all'ospedale di Cattinara, il migrante nepalese che dormiva in Portovecchio. Sulle migrazioni internazionali, un incontro organizzato da ICS e ActionAid. Prevenzione antidroga tra i giovani, a Udine presentate le nuove iniziative del premio Sapremo. Ambiente e meteorologia nella nuova pubblicazione trimestrale dell'ARPA, intervista con la direttrice. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. In apertura ancora i temi della sanità con una ricerca del sindacato dei medici ANAO Assomed che certifica la riduzione di oltre il 20% dei primari in 10 anni in Friuli Venezia Giulia. Nel servizio il dettaglio e le implicazioni di questi tagli. In 10 anni nella sanità del Friuli Venezia Giulia sono state tagliate 43 direzioni di struttura complessa, dalle 207 del 2013 alle 164 del 2023. Un 21% in meno tra reparti accorpati, strutture eliminate e direzioni a scavalco tra più ospedali. In alcune regioni questa percentuale raggiunge picchi superiori al 50%, come in Molise e Sardegna, ma la media nazionale è di circa il 19% di riduzione degli ex primari, di poco inferiore al dato regionale. L'elaborazione del sindacato medico ANAO Assomed si basa sul conto annuale del Tesoro. I tagli sui ruoli apicali, sostiene ANAO Assomed, a cascata hanno impatto su servizi, prestazioni e assistenza ospedaliera, ma anche sulla quotidianità del lavoro degli stessi professionisti. Massimiliano Tosto, segretario regionale di ANAO Assomed. Difficoltà gestionale perché comunque uno deve essere presente su più sedi, anche spesso su ospedali distanti parecchie decine di chilometri. Diventiamo un po' delle trottole che giriamo da una parte all'altra dell'azienda sanitaria. Meglio è andata in Friuli Venezia Giulia sulle strutture semplici dove si coordinano le equipe e gestiscono i percorsi. Appena 6 in meno rispetto al 2013, un calo del 3% quando in certe regioni lo sfoltimento è stato superiore anche al 60-70%. In media è stato del 33% del Nord Italia. In questo quadro aumenta, rileva il sindacato, il fenomeno dell'affidamento di reparti a direttori di area universitaria anziché ospedaliera e quindi con designazione dell'ateneo, sottraendo ulteriori opportunità di crescita a dirigenti ospedalieri. Cosa chiede il sindacato a livello regionale e nazionale? Si cerca di non tagliare ulteriormente queste strutture complesse che spesso ultimamente vengono anche clinicizzate, quindi con l'intervento dell'università nella gestione proprio primariale di questi reparti, pensando anche che per governare meglio le strutture sanitarie e i reparti ci vogliono anche degli apicali in numero adeguato e con competenze adeguate. Palmanova, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Intanto a Pordenone, mentre ci si prepara un'altra tappa nel trasloco verso il nuovo nosocomio, la vecchia struttura denuncia gravi carenze. Nelle ultime ore, temperature inadeguate negli ambienti che ospitano il 118. Personale sanitario del 118 costretto a lavorare al freddo nel vecchio ospedale di Pordenone. La denuncia arriva dal sindacato UGL Salute, intervenuto sul tema con una nota. Il segretario regionale Giuseppe Perricone riferisce di condizioni indegne per professionisti che garantiscono ogni giorno un servizio essenziale alla cittadinanza. In particolare spiega l'ennesima rottura dell'impianto di riscaldamento ha costretto gli operatori e le operatrici, una cinquantina in tutto, a lavorare senza una temperatura adeguata, sottolineando come si tratti solo dell'ultimo episodio di una lunga serie di disservizi che, accusa il sindacato, l'azienda continua a ignorare. L'azienda sanitaria ha acquistato 3 piccoli caloriferi mobili, ritenuti però dai lavoratori del tutto insufficienti a garantire un ambiente di lavoro dignitoso e sicuro. Perricone sottolinea inoltre che durante un tavolo sindacale l'azienda aveva assunto l'impegno di trasferire l'emergenza territoriale 118 subito dopo il completamento del trasloco del vecchio pronto soccorso. Purtroppo ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta in merito, né si sa quando sono i tempi per il trasloco in un'unità operativa più consono all'attività lavorativa. In mattinata una ditta esterna ha eseguito un intervento all'impianto, che per il sindacato resta però una soluzione tampone e non risolutiva. Chiediamo chiediamo che ci sia al più presto lo spostamento dei locali che siano consoni all'attività dell'emergenza territoriale del 118. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La politica, il destino della cabinovia di Trieste resta in mano al comune, ma il presidente della regione Massimiliano Fedriga ribadisce il sostegno all'amministrazione comunale triestina, sottolineando il lavoro eseguito negli ultimi anni per trasformare la città. Il sindaco di Piazza ha annunciato un incontro con il governatore entro la prossima settimana per dirimere la questione Ovovia, incontro confermato da Fedriga che parla di supporto. La competenza ovviamente comunale, noi come sempre diamo tutto il supporto possibile per addivenire a una soluzione più sostenibile possibile. Ne abbiamo parlato più volte ovviamente, però adesso penso ci vedremo anche nei prossimi giorni. Io do un supporto, non siamo protagonisti, tutto il supporto che c'è noi lo diamo, perché penso che il Comune in questi anni abbia lavorato molto bene. Penso che il Comune e il sindaco di Piazza abbiano cambiato il volto di Trieste. Sul tavolo il ricorso a una nuova procedura di valutazione ambientale o il ricorso al Consiglio di Stato in merito alla decisione assunta dal TAR, decisione che blocca a tutti gli effetti il progetto. A quando è attesa una decisione, se fare un ricorso, se rifare Vinca e Vas? C'è un quadro temporale? Ma dobbiamo un attimo, siccome rivedere un attimo tutta la cornice, ma dobbiamo farlo insieme al sindaco. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Fra gennaio e marzo sono previsti aumenti di organico nella Polizia di Stato. Il piano di incrementi è stato ricevuto dall'assessore regionale Roberti, che ne ha comunicato i dettagli. A Trieste arriveranno 5 unità in più alla Questura, 4 alla Polizia Stradale, 5 alla Polizia Postale, altri 5 alla Scuola di Polizia, ma soprattutto 59 tra agenti e ispettori assegnati alla Polizia di Frontiera. Rafforzamento significativo, dichiara Roberti, che sommato alle 44 unità aggiuntive a Gorizia e alle 21 a Udine porta complessivamente a 124 tra agenti e ispettori in più impegnati nella polizia di frontiera sul territorio regionale. Il potenziamento, secondo Roberti, consentirà di mantenere e rafforzare i controlli ai confini. La regione sostiene la bontà della scelta di proseguire con la sospensione dell'accordo di Schengen. È morto all'ospedale di Cattinara, a Trieste, il migrante nepalese di 43 anni che sabato scorso era stato colto da un malore, un'embolia polmonare, in Porto Vecchio, dove aveva trovato riparo da quando era arrivato in città. Le sue condizioni si erano aggravate nella giornata di lunedì, fino alla morte cerebrale e al decesso. La vicenda dell'uomo aveva acceso un duro confronto tra il presidente di ICS, Gianfranco Schiavone, che aveva criticato l'operato della questura nella gestione delle pratiche dei richiedenti asilo, e l'assessore regionale Roberti, che aveva accusato proprio ICS di essere più un partito che un'associazione che si occupa di accoglienza. Sulla morte del migrante è intervenuto anche Fabrizio Maniago, segretario del sindacato di polizia SIULP. Dai 100 a 150 richiedenti asilo annui di 20 anni fa si è passati alle 120 persone al giorno che si riscontrano nelle operazioni in Porto Vecchio, scrive il sindacalista, mentre nello stesso periodo aggiunge il numero di poliziotti della sola questura di Trieste passato da 600 a 400 unità. Il poliziotto esegue con infinita umanità, dice ancora Maniago, un compito assegnatogli, e allora eventuali responsabilità di malfunzionamento della macchina vanno cercate nel sistema, nella gestione, nell'organizzazione di chi dovrebbe fornire logistica, servizi, spazi adeguati e riscaldati. Intanto, proprio l'associazione ICS ha organizzato un ciclo di incontri di formazione al Via Oggi dal titolo Capire le migrazioni internazionali. Il primo appuntamento, alle 17 al Circolo della Stampa di Trieste e in streaming previa registrazione online, sarà dedicato al tema dell'esternalizzazione dell'asilo e dell'accordo Italia-Albania, con l'intervento di Francesco Ferri dell'ONG ActionAid. Gli abbiamo chiesto in che modo funziona attualmente il centro di Gadjer costruito dal governo italiano in Albania. Fin dall'inizio del progetto di trasferimento coatto delle persone migranti in Albania, ActionAid Italia, nell'ambito del tavolo asilo, ha denunciato le modalità con cui funzionano queste strutture e l'idea stessa di confinare le persone migranti in un paese fuori dalla giurisdizione europea. Come funzionano attualmente questi centri? Attualmente queste strutture sono destinate per il trattenimento delle persone già migranti già presenti in Italia e trattenuti nei CPR italiani. Viceversa, questo progetto era partito con ben altre finalità, perché dall'ottobre del 2024 i centri in Albania erano destinati al trattenimento di persone intercettate in mare. molti tribunali italiani e poi anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito che quella prassi era illegittima perché violava il diritto dell'Unione Europea. Uno dei temi principali del dibattito oggi è le politiche di gestione dell'immigrazione. C'è stata anche di recente l'entrata in vigore dell'accordo che ha sostituito il Trattato di Dublino, ma quali potrebbero essere delle politiche efficaci di gestione di questo fenomeno che è incomprimibile in ogni caso? Sì, noi siamo davanti a due paradossi. Il primo è di natura giuridica, per cui le politiche migratorie in Italia, ma anche in tanti paesi europei, sono sviluppate contro il contenuto della legge, nonostante la legge preveda alcuni standard dal punto di vista della tutela dei diritti. L'Italia e altri paesi sono molto audaci nel sfidare, alcune volte violare apertamente questi standard. Il secondo paradosso è di natura più gestionale e le persone che fanno impresa in Italia denunciano da anni la carenza di manodopera e chiedono, fuori da ogni ideologia, che in Italia predisponga canali di accesso per le persone migranti che vogliono e possono lavorare in Italia. Se le politiche migratorie fossero libere dalle griglie dell'ideologia, le strategie per rendere più efficace, ad esempio, il trasferimento di persone migranti in Italia in maniera volontaria potrebbero essere molte. 3 cittadini tunisini sono stati arrestati a Udine dalla polizia intervenuta presso un supermercato di via Cividale, dove i 3 avevano sottratto capi di vestiario e generi alimentari per 150 euro nascondendoli dentro zaini e borse. Sono stati notati da un cliente che ha dato l'allarme, consentendo al responsabile del punto vendita di inseguire i 3 e mettere sulle loro tracce una volante in transito. Nei confronti dei 3 erano già stati emessi provvedimenti di espulsione. Un laboratorio forense dotato di una speciale attrezzatura clinica e di un gas cromatografo in grado di stabilire la quantità di sostanze stupefacenti attive nella saliva è stato impiegato nei giorni scorsi dalla polizia al casello autostradale dell'A34 a Villesse. Su 18 automobilisti controllati, 2 sono risultati positivi alla cocaina e 1 ai cannabinoidi. Le loro patenti sono state ritirate. La Polizia di Stato continuerà la campagna di controlli con i laboratori forensi sulle principali arterie stradali. Una tragedia che nel 2018 colpì Udine, la morte per overdose di una minorenne ha dato origine al premio Sapremo, un percorso di prevenzione che ha coinvolto migliaia di studenti. Oggi nella sede di Confindustria Udine la presentazione delle nuove iniziative. Quella morte per overdose nel bagno della stazione ferroviaria di Udine, vittima una ragazza, dice, di soli 16 anni, un fatto drammatico che sconvolse la città. Era l'ottobre del 2018, da allora si è aperta una riflessione profonda che ha coinvolto tutte le istituzioni della città, pubbliche e private, le forze dell'ordine, l'azienda sanitaria, gli industriali, ed è nato il progetto Sapremo, salute protagonisti ed emozioni, che in 7 edizioni ha coinvolto 360 classi, oltre 7.000 studenti, in iniziative di salute pubblica, workshop fatti nelle scuole e fuori. Nella sede di Confindustria Udine questa mattina la presentazione delle iniziative di questo nuovo anno. Tra le principali novità, il coinvolgimento dei ragazzi nel processo educativo. Si parla di peer education, 150 ragazzi selezionati. Siamo con Andrea Monculli, educatore professionale del servizio dipendenze di ASU FC. Perché i ragazzi diventano a loro volta promotori di salute, quindi educatori? La peer education è una strategia vincente, ce lo dice la letteratura, ed è soprattutto vincente per portare dei messaggi critici ai giovani e quindi farsi aiutare e coinvolgere un giovane nella comunicazione con un suo pari aiuta a facilitare la trasmissione di contenuti molto delicati come quelli rispetto alle tematiche di salute e di prevenzione, e questo ci aiuta anche a metterci in dialogo in maniera più vicina al mondo giovanile. Il primo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, quando e dove? Il primo appuntamento aperto alla cittadinanza sarà lunedì 19 gennaio alle ore 20:30 presso il Teatro Palamostre. Proponiamo quest'anno un talk realizzato da una compagnia torinese che è Taxi 1729, che tratterà dei rischi inerenti al gioco d'azzardo, che sappiamo essere una pratica molto diffusa tra i giovani. Si stima che almeno oltre il 50% dei giovani under 18, quindi minorenni, hanno giocato e hanno sperimentato del gioco d'azzardo nella loro vita, e quindi è uno di quei comportamenti che poi può causare una dipendenza, che ci sembrava interessante attenzionare in una maniera interattiva. Quindi il talk sarà interattivo e saranno presentati contenuti di natura scientifica. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli ombrelloni rosa sulla spiaggia di Grado, messaggio di consapevolezza nella prevenzione contro i tumori, hanno consentito di raccogliere la scorsa estate oltre 12.500 euro e ora l'assegno viene consegnato all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. L'ingresso e la passeggiata della spiaggia sono stati personalizzati con materiali dedicati a come esporsi al sole riducendo i rischi, a un'alimentazione varia ed equilibrata e all'attività fisica. Dal 2024 l'iniziativa prevede l'allestimento di 130 ombrelloni rosa che colorano una porzione della spiaggia. Ogni ombrellone della spiaggia rosa ha un QR code per accedere a un'area dedicata sul sito AIRC dove trovare ulteriori approfondimenti bilingui sui temi della prevenzione. In due anni sono stati raccolti 23.500 euro da devolvere alla ricerca oncologica. 12.45, 30 secondi, siamo al tempo, cielo da coperto, variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 8 gradi, a Udine 5,5, a Pordenone 5, a Gorizia 4, a Tarvisio 0 gradi, a Forni di Sopra, Piancavallo e Tolmezzo meno 1, a Sappada meno 2,5 gradi. Sul Monte Lussari 4 gradi, sul Monte Zoncolan 1,5 gradi. Sulla costa a Grado e Lignano 4 gradi. Le previsioni dell'ARPA, oggi pomeriggio avremo su bassa pianura e costa cielo coperto con qualche piovigine, nel pomeriggio sera sul Carso, sul resto della regione cielo variabile con minore nuvolosità su Alpi e Prealpi Carniche. In montagna, inversione termica, come abbiamo sentito, a fondo valle con zero termico a 2700 metri. Domani sulla costa e sulla fascia orientale al confine con la Slovenia avremo cielo coperto con possibili piovigine sparse. Sul resto della regione cielo in prevalenza nuvoloso ma con qualche schiarita sulla fascia di Alpi e Prealpi Carniche più vicina al Veneto. Zero termico in calo a 1500 metri circa. Si chiama Terra Rara, la nuova pubblicazione online trimestrale di ARPA FVG che affianca articoli di approfondimento a interviste, reportage, podcast, video e infografiche per accompagnare il lettore in un percorso di conoscenza che unisce rigore scientifico e linguaggio accessibile. Fra i temi del numero zero, un podcast dedicato a fuochi d'artificio e falò epifanici. La direttrice generale di ARPA FVG, Anna Luttmann, spiega la scelta del nome e gli obiettivi. La rivista si chiama Terra Rara perché le terre rare sono delle sostanze chimiche scoperte in un certo periodo con dei livelli energetici molto nascosti. A noi ci piaceva proprio far emergere tutta la conoscenza del territorio che l'agenzia ha, spesso nascosta anche agli stessi cittadini. Noi abbiamo tanti dati scientifici, abbiamo tante conoscenze, è giusto che le nostre conoscenze vengano riportate, fatte emergere dalla nostra rivista e portate a disposizione dei cittadini, perché chi conosce il proprio territorio lo può soltanto che amare di più e proteggere, quindi anche custodire a livello proprio personale. È una piccola anche rivista che può aiutare anche i nostri piccoli cittadini a fare un po' di educazione ambientale, no? Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La storia dei campi di internamento fascisti riservati alla popolazione slovena, una delle pagine più buie della politica coloniale e bellica del regime, sarà raccontata oggi in un convegno alla Biblioteca del Senato a Roma. All'incontro, dal titolo La memoria dimezzata, i campi fascisti nelle testimonianze slovene, promosso dalla senatrice Tatiana Rojc, interverranno gli storici Marta Verginella, coautrice di un recente libro sull'argomento, Guido Krajnc e Costantino Di Sante. La pagina della cultura, un poeta bohemien e la sua opera monumentale, ovvero Theodor Deubler, che nacque a Trieste nel 1876 da una famiglia tedesca e visse per 20 anni in città prima di trasferirsi a Vienna, e i 30.000 versi della sua Aurora Boreale, un'opera di cui l'editore Marsilio ha da poco completato la pubblicazione in 3 volumi che stasera alle 18 saranno presentati al Caffè San Marco. All'incontro parteciperanno il curatore Luigi Garofalo e il poeta e saggista Paolo Ruffilli. Una visita a Palazzo d'Aronco, o meglio, un dietro le quinte del municipio di Udine, in visita con la curatrice dei civici musei cittadini. L'abbiamo raccontata questa mattina a Buongiorno Regione, ora ve ne riproponiamo la traduzione, la riduzione radiofonica. È il cuore pulsante della vita politica della città, sede degli uffici comunali e luogo in cui si riuniscono il Consiglio e la Giunta. Si tratta di Palazzo d'Aronco, che prende il nome dell'architetto Raimondo d'Aronco, che lo progettò e ne seguì la costruzione. Silvia Bianco, curatrice dei Civici Musei di Udine. Pensate che il primo contatto con quello che è l'edificio comunale lui ce l'ha nel 1876, seguendo il cantiere per la ricostruzione della loggia del Lionello dopo l'incendio. Un lavoro che richiese molto tempo, con ripensamenti delle autorità e difficoltà sul piano dei finanziamenti. L'idea di ricostruire il palazzo comunale nasce nel 1841. Vengono fatti tre diversi progetti e solo nel 1887 viene coinvolto Raimondo Daronco. Daronco lavora al palazzo per 40 anni, quindi fino al 1930, quando viene inaugurato. Il risultato è uno dei suoi lavori più significativi. Il palazzo mescola lo stile Liberty, all'epoca modernissimo, con stilemi dell'architettura rinascimentale cinquecentesca italiana. Per realizzarlo fu necessario demolire e traslocare la Casa Veneziana, ora in piazza 20 Settembre, e ridisegnare anche il piano urbano circostante per accompagnare il nuovo porticato, fatto con colonne in bugnato, che fa vibrare la luce sulla sua superficie. L'interno è caratterizzato da due grandi spazi, la Sala Iace, che prende il nome dalla statua dell'eroe greco, e il Salone del Popolo. Una piazza coperta, pensata a doppia altezza, con la luce che arriva dall'alto e scende attraverso un pavimento vetrato anche nel seminterrato. La luce è un elemento fondamentale, dall'idea della trasparenza, del rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino. La luce poi è un elemento che disegna le architetture. Gli spazi più importanti, quindi Sala del Popolo, l'antisala Iace, sono ventrati nella parte superiore per far entrare la luce, per rendere lo spazio più fruibile, più vivibile. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina degli spettacoli, definito da molti il più grande clown classico del nostro tempo, David Larible fa tappa in Friuli Venezia Giulia per 5 date comprese nel cartellone del circuito ERT. Il clown dei clown, così è definito, è il titolo ed è anche il titolo dello spettacolo, scritto e diretto dall'artista di origine veronese, affiancato sul palco da Andrea Ginestra e con le musiche eseguite dal vivo al pianoforte da Mattia Gregorio. La storia, spiega Larible, di un ragazzo delle pulizie che si trova a fare la parte del protagonista nonostante l'ostruzionismo di un direttore di scena. Il debutto alle 20:45 al Cinecity di Lignano. Massimo Popolizio dirige e interpreta a Udine la black comedy Ritorno a casa del premio Nobel Harold Pinter. Le dinamiche familiari distorte, il potere, la violenza e la disgregazione dei rapporti in una vicenda ambientata a metà degli anni 60 a Londra, piena di cinismo e cattiveria. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Nuovo da stasera a giovedì. Oggi alle 17:30 la conferenza introduttiva di Peter Brown al testo di Pinter. Domani alla stessa ora Popolizio e la compagnia incontreranno il pubblico. Un appuntamento di rilievo a Udine anche per la musica, il concerto a quattro mani dei pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. Al Palamostre saranno protagonisti di 180 in due ospiti degli Amici della Musica. Canino, 90 anni da pochi giorni, e Ballista, che li compirà a marzo, sono due tra i massimi interpreti della nostra musica da camera e vantano un lungo sodalizio artistico. Suonano insieme da 60 anni. Il basket, dalla zona a rischio della classifica al settimo posto con tanto di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, è l'impresa dell'APU Old Wild West Udine, che guidata da Vertemati e fondata su un gruppo solido ha dato una bella svolta alla propria stagione. Alle finali di Torino, a febbraio, i friulani nei quarti affronteranno Brescia, che oggi guida la classifica del massimo campionato in coabitazione con la capolista Virtus Bologna, ma con una peggiore differenza canestri. La pallacanestro Trieste, che si è qualificata da sesta dopo l'esclusione di Trapani, nel primo turno delle finali di Coppa affronterà invece l'Armani Milano. Priorità nei piani di Trieste è data però alla prosecuzione dell'avventura in Champions League. Stasera i biancorossi giocheranno in Ungheria la gara 3 dei play-in contro lo Szolnok dopo un successo in trasferta e una sconfitta in casa. Calcio, si prevede un recupero rapido per Nicolò Zaniolo, che ieri a Roma è stato sottoposto a un intervento in artroscopia a un menisco del ginocchio destro. Meno di un'ora sotto i ferri per il numero 10 bianconero, che nel primo pomeriggio rientrerà dalla capitale e si rimetterà subito al lavoro in palestra. Il giocatore, spinto anche da ambizioni in chiave di maglia azzurra, vuole ridurre al minimo l'assenza dal campo e il rientro in campionato, infatti previsto nella prima settimana di febbraio. Intanto l'Udinese potrebbe cedere in prestito Matteo Palma alla Sampdoria in Serie B. Il giovane difensore, che fra due mesi compirà 18 anni, raggiungerebbe così Pafundi, trasferitosi a Genova la scorsa estate. La Samp occupa il 16° posto nella classifica del campionato cadetto, terz'ultima come punteggio insieme a Spezia e Bari. E il fratello ventenne di Matteo Palma, Leonard, potrebbe invece lasciare la Triestina, richiesto dalla Pro Vercelli, che milita nello stesso girone di Serie C. La società labardata nelle ultime ore ha ceduto il centrocampista Cernigoi al Sud Tirol in Serie B.